Spiego tutto, stacco l'antenna e ci sentiamo un altro mese. Ciao ciao. E per dirlo, butta giù la pasta. Dillo, butta giù la pasta. Quanto tempo, diciamo? E qui c'è un po' di vento. Giulia! Ah, ok, ok, dai, allora cerchiamo di... Noi non ci diamo più adesso. Cerchiamo di vedere che le siamo...